Erano riconosciuti che erano loro, li avevano presi a casa e li avevano aggrediti. Ma questione che abbaia si muove, capito? Sì, ma loro perché, scusa, l'hanno presa a calci, a quale titolo? Chi lo sa, e comunque dice che non stavano facendo nulla, che i cani erano lì fermi, tranquilli, loro sono passati una controllata di bere al muso e l'altro ha tirato l'altro da un calcio. C'è stata gente che li ha visto di là, forse dirà che si è una di quelle donne che fanno il comizio da voi, io vi ho fatto la cura. Domani ti so dire qualcosa e come lo ritiro poi domani sera magari, se riesco, accendo. E vabbè, lo posso anche mettere in studio, provare. Allora forse anche domani mattina, domani fine mattinata, nel pomeriggio, lo proviamo, speriamo che ci sia, che non ci sia un mattone dentro. Gli altri sono belli, però quello è, c'ha un bel fatto, questi bei maniglioni, quando le mani poi si facevano di metallo, no? Adesso è tutto di plastica, adesso. Davvero, tutto di plastica, ci faccia di e quella lì c'ha tutti quei bei pomi in alluminio, boh. Speriamo che non sia sciolto, che funzioni. Qua con Royce siamo nuovamente a punto fermo, c'era un problema nel pulsante d'accensione e sembrava che Massimiliano ha detto ma lo mettiamo a posto, vediamo se si riesce, invece non va, si imbalza, cioè non accende, non spegne, bisogna stare 2, 3, 4, 5 volte a provare, schiaccia e niente, adesso lo cambiamo e mettiamo nuovo anche il pulsante d'accensione, si dovrebbe trovare così, sembra tipo quello dei televisori, come i televisori di un po' di anni fa, la fusione, per aver visto qualcosa del genere. Va bene, il cambio a chi è? Che è Cristian che aspetta a lui, avanti Cristian. Gianni, ma un rapporto negativo a con lui bisogna mandargliela, con l'animale che è di quell'apparato lì. Sì, è vero, perché ma lui era un collezionista, mi ricordo, uno senza microfono e uno con microfono, e più uno ce ne aveva in collezione. Aveva 3-4 parti di un tipo, quindi stava per questo disfatto, dice che stava cercando di eliminare un po' da che erano gli apparati come si vede, capito, tutti testati eccetera eccetera. Testate bisognerebbe prendere a lui, testate. Mandagli un report negativo, alimentatore tutto sabotato, in modo che così impara a fare il furbo, lo già tutto testato un fico secco, dentro c'è il transito della pista pubblica, lo già. C'erò l'indirizzo io di quello. Ma bisogna mandare una mail a eBay, capito? L'indirizzo lo mandi a lui, lui dice ti fa una pernacchia lunga mezz'ora. A eBay bisogna mandarlo. È quella che c'ha sì, ma su, quello che è un tondo, sopra un po' con la, tipo il Tarnal Side, che tipo lì, il vecchio, il vecchissimo su, quello lì. No, è tondo, è quadrato. Ah, ho capito, quadrato grigio. Non è come quella dell'altra parata, ma è amplificata, più squillante, un po' più diversa, è diversa, c'è un pochino forse più di toni, di toni neri, meno effetto camera, comunque bella modulazione. No, c'è una tracciata, ragazzo, è spento. spento. No, ma comunque mi sono dei due parecchi che io mi sto sempre doppiando. Non ti dire come concorrere perché tanto adesso non ti può sentire io. C'è un apparecchio spagnolo, non di marca, ma è una favola, è lucente, io avevo una monopole che luccica, non è mia figlia, mi ha preso gli occhi. Beh, a me se mi hai visto lo sai chi sono, famosi. Quando hai visto l'offerta di chi è, non puoi sbagliare perché c'è il nominativo. Lo so. C'è un nick, il nominativo è quello. È il mio, c'è il mio nominativo, c'è Scorpio. Ah, davvero? No, non ci ho fatto mai caso, davvero, non ci ho mai fatto caso. Invece io sono Gianni. 1976. No, non ti ho mai visto neanche a te. No, non ti ho mai visto. Io c'ho Scorpion. Scorpion. E poi c'è scritto The Voice. Oh, vero. Come stavo dicendo, Marco, come ci sono un altro di apparecchi che sono bellissimi, sono di un quinto. Ecco, non me l'avrei voluto prendere, però dico, mi sa che se tu le troppe spese, regali, regalini, questo o quell'altro, e devo un po' fare il sigillo alla ciglia, e me l'avrei preso, quindi, è molto bello. Regali in quinto, la butto e so che apparecchio è. Sì, l'ho visto. Io ero in pista per un altro again ottavo, per un altro Royce, cosa c'avevo? Mi ricordo. Ah, c'era un Regency, un Realistic, un Regency quello piccolo, sempre la base con le bande laterali, poi cos'altro c'era? Ah, il Pace, c'era un Pace 1000 che è bellissimo, guarda, un Pace 1000 bellissimo. E poi, adesso quando lo dico, Claudio dice, no, che poi un cobra, è carissimo. Yeah. appoggiato in cucina, fate il conto, coperto, ho dovuto appoggiare in cucina perché non sono letto, fate un orto e la faccia, così. Diventa un bordello nero qua, già ho deciso di non mettere più niente, in più c'è anche quella roba, vediamo un po'. Il cobra, questo assorbe 5 ampere pari a 30 watt di potenza. Ma che antenna stai usando? Prima vedi normalmente a 9:30, 9:20, 9:30, ricordo che comunque eri lì posizionato, adesso non sei sulla zona rossa, sei sulla zona bianca, capito? Sei sulla zona bianca, bandiera bianca ce l'ho fatto. Hello. stesso concetto con Marco. Mi faccio sentire 707 in NHF, una benissimo, il suo microfono originale, il suo accordatore, l'FC707, ho tutta la linea, una Rocker, ho già provato, un ottimo apparecchietto, cioè può sempre servire per fare qualche spedizione, sai, uno di noi o un amico rimane senza KF momentaneamente, può usare quello. L'ho preso proprio perché è molto bello. Degli altri 7.000 l'ho perché è un apparato, diciamo, molto affezionato, non vale niente, ma ha una ricezione fenomenale, mi piace moltissimo ascoltare ancora la radio. Altre non ne ho, non c'ho più niente, ho fatto tutto, già l'hai visto, ho fatto una pulizia, l'arrivo dell'8 50 mi ha fatto un po' di ordine, quindi non voglio rifare il bordello. Infatti ho detto questo mio amico, Santo Luca mi già senza nascondere niente. Stavo gareggiando Luca Flipper e mi ha trattato stasera, cercato di cattolare, no, tua madonna, come faccio adesso? Dove siamo arrivati sotto il 20? Che cosa facciamo? Facciamo un show, consentiamo male, fammi decidere perché è una cosa un po' così, non mi va, fate però non ci può vedere se. Vediamo, ci serviamo a fare qualcosa, se no non sei d'accordo, ma ritiriamo, pazienza, non è fino a tutti. Capito, mio Marco, il prezzo è quello, che ne dici? Ecco, dove ti dica? Ciao, che è Antonello. Cosa ti dica? Sono di apparati che... Lì, eccetera, ma se è uno di serve. Io qua di cose così non ne faccio nulla. Quelli della 27 li sto prendendo, quelli base, perché mi piaceva averne un po', praticamente tra una cosa e l'altra, adesso ce ne già sono 10, basta, cioè quasi adesso faccio nel sito faccio la zona per il museo della Phoebe Band, così. Lì ci sono solamente cose selezionate, sono 10 fra Cracco, Piaberri, Fierce, Lafayette, Royce, Pace, Again, poi cos'altro c'è, Robin mi pare, 10 dovrebbero essere tanto dell'altro, perciò già c'è proprio tutta una zona, qua lo sai com'è. Al momento ne lascerò un po', lascerò in studio e ne porterò qualcuno qua ogni tanto giusto per accendere e provarle, poi le altre lascio accese in ufficio. Ma poi quando prossimo anno mi porto piano di sopra farò proprio tutta una zona solo con una struttura solo per quelli e tutti in funzione sul commutatore, in modo che giro e quando voglio usare uno uso quello, oppure faccio mandare dagli stretti poi commutatore dell'Alfa, che può commutare, mi pare sia proprio 10 a 1, e metto un'antenna, e quei 10 apparati commuto, ogni sera ne provo uno, tanto per giocare, capito? È certo che tu di quello bisogna fare, ne è. Stavi già spolverando queste macerie, sì, è un bel apparato, ma per chi non ha altre cose, capito? Vabbè, così, pensa un po' cosa fare. Sì, questo è lo prendo io allora. Ma adesso vediamo domani, però un po' cosa, non so. Sono così. Sicuramente, come abbiamo letto, hai visto che ha fatto grande ordine, grande pulizia, c'è un terra di ordine sotto tutta la fila dei Kenwood che uso naturalmente, sopra vabbè, tutta la linea ISO che uso, non sono apparati a buttare, insomma, sono tutti apparati belli che si possono usare tranquillamente. Sono sempre 920, ma ogni tanto faccio qualche passaggio, ti ripeto, con 902, il suo microfono. 707 lo uso, l'unico che non uso è il 7B, ma c'è l'antenna in ricezione, lo uso in ricezione. Gli altri ho tutti messi su, non faccio niente. Nell'altra mensola, praticamente nell'altra, nella L, c'è il 440, comunque praticamente il questo giorno adesso. Nulla sono in cucina, perché non ci stanno, la faccio, non metto un terzo, ma mi dice, ma cosa vuoi fare anche la stazione qua in cucina? No, basta. Basta così, fate avanti al telefono, Luca, dico, fa un alloggio, non mi avete a futillini. Pazienza. Tanto non mi frega niente a lui. Tutto lì, va bene. Aspettate, perché insomma, se avevo un tuo posto mi sarebbe piaciuto vedere anche nuovamente 820. Ho una fotografia io di stazione dove c'è appunto 820, il 101 Z lì, e poi cosa c'è? Non mi ricordo. Ah, vabbè, la solita linea dei frio, quello là. Antonio, il microfono per te, vai. Meglio che comprarsi un fornale, guarda. Almeno basta uno. E anche lì. Se c'è la disponibilità, poi uno più basta. Poi se c'è il Ferrari ti piace comprarti la Porsche. E dopo ne vuoi una un po' più classica e ti piace la Jaguar. È sempre il solito discorso. Sempre avanti, si guarda sempre avanti. A te, Gianni, fa girare e poi sei rientrato Cristian. Sì, la spendere, guarda, mi piace troppo, sono 40 che... Cioè, la passione c'è, però non è che questo è il tanto, un apparato al meglio si può prendere, ma non più di tanto. Avanti qui. Ha chiaramente ragione, però la finanza è quella, è quello il budget. Difficile per provare magari che cosa se prende 7.800, provare a aspettare questo nuovo della IAESI, vedere com'è. Ma poi, per il resto, non c'è nient'altro. Intanto quando faccio controllo in uno di quei cassetti che ho qua, ci sono sempre un paio di scatolette con unità di TMS, cose varie, di apparati obsoleti della Kenwood o della ISO. Va bene, le verifico, vedo un po', speriamo che ci sia qualcosa di interessante. Boh. Non sai come, si parte sempre, no, non mi interessa niente, oh no, non sono paragonati, e poi però controllo in pieno come un coso, un arrotto. Sì, ho ancora fino così, poi io con te ci sono già stato, quindi so come il tuo comportamento si era, non ci sono problemi. Ma ci sono cose più interessanti, se vedi qualcosa, cioè che dobbiamo entrare anche all'arrivo in macchina, quindi vedo un po' se qualche sarebbero ideali per me davvero, perché con il microfono ci siamo, io con quel microfono Paolo Covito. Bel di colonia. Paolo Covito con 30 euro, 50 euro. L'ho visto non quest'ultima volta, ma forse l'anno scorso. 30 euro o 50 euro, una cosa del genere. Che è bidone. Sì, qua, ci prendiamo un pomeriggio, a me viene meglio un'altra settimana, così. Andiamo lì, no? In ufficio, che non c'è problema, non ci disturba nessuno. E possiamo fare quello che vogliamo, come ho fatto con quando ho dovuto fare il lavoro nella macchina mia. Ho messo lì tranquillo, a piazzale, ho portato tutto quello che serviva, cassette attrezzi e via senza problemi. Mentre per quanto concerne quel lavoro del capo di alimentazione, conviene sfruttare questa opportunità, visto che la devi portare lì per montare le lampadine, te lo fai passare il capo, perché fra l'altro lì bisogna sempre incidere loro mettono una specie di tubo in gomma nera molto duro, dove vengono fuori tutti i cavi della centralina, tutte le varie cose elettriche, eccetera. E quello è sempre un problema, perché bisogna tagliarlo, fare, poi mandare la sonda dentro, è un casotto, poi controllare la fine del cruscotto. Loro invece sanno già come fare, non gli costa niente. Gli porti già il cavo, portagliene un bel po' di metri più, te lo fai già fascettare bene nel petto davanti, ne lasci un po' il petto a matassa e poi lì si farà il lavoro con i mozzetti, con i fusibili e poi si lavorerà dentro la macchina, insomma. Va bene, vediamo se si è ripreso Gianni. Ma che Gianni è niente, come sai fare, quando queste cose svenuto ha battuto a terra mentre è caduto. Gianni! Gianni c'ha dei cali di temperatura, è andato a una certa ora, si addormenta, con la radio accesa, poi si sveglia soprassalto, ditemi. Così fa, ho capito. Allora avanti Cristian. Mi sto ovviamente ascoltando il discorso molto molto serio. Così vuole Cristian. Discorsi vogliono seri, quando sono andato a seri poi mi devo scherzare ogni tanto un colpettino. E allora niente, fatti fare questo lavoro, se no gli dai 10-15 euro ma che ti passino quel cavo, perché quella è una rogna non indifferente. Io sono matto, ho già contattato con Mano. Ultimamente ero in Audi, ho visto appunto fare un lavoro di montaggio di una centralina, passavo praticamente sotto, mi hanno tirato fuori questa mattassa di filo, sembrava un tubo da un pollice, mi sono spaventato, questi cavi ce li hai due, stai attento a non passare, non fare, non tirare, qui sono tutti i cavi di collegamento, centraline, airbag, bimbo-ba, mamma mia, gli ho detto ferma. L'ultimo tagliando che ho fatto, gli ho chiesto a Andrea, al capo officina, siamo amici, se faceva, mi ha detto, ti compri il cavo, la prossima volta che vieni, me lo ricordi, e ti trattieni qua, una mezz'oretta, un'oretta, se non vediamo il tempo necessario per metterti, per tirare, per abbassare giù il cruscotto, perché ci riescono a questo cavolo sotto il cruscotto, che pure è tutto coperto con tutti i pannelli, un pannelli, c'è un po' di pannelli a toglie. Ho detto te lo faccio fare io dal nostro operaio, perché è meglio di tutto che niente, siccome ieri mi ha fermato la stradale tornando dal QRL, mi ha detto se avevano appena bruciato, tu eri maggiormente accorto, ma scusi, trovare la cambio, altrimenti 55 euro, lì mi stava già avendo gli attacchi, 55 euro, mi escono dei cavetti, delle cosettie, dei mammut, ma sai, prima delle loro, una cosa avanza. E quindi ho preso appuntamento, forse c'era la tua mascherina, c'era la smontata sono così. Allora vado lì, ne approfitto come pomeriggio, vado lì e mi faccio fare questa cosa. Sì, fatto, ho già preso, ho preso la da Fusaro, da 2,5, rosso e nero, quello che usano proprio per fare impianti. Impianti russi, mi ha dato l'altro colore, quello va bene. 2,5, ho preso 5 metri rosso e 5 metri nero. Glielo faccio passare direttamente. Va bene, tutto lì. E poi si fa quel lavoro, ma no, è da fare, perché non è per stare così, ormai mi ha preso, gli attacchi. Infatti mi ho già tirato fuori la NR770, ho tutta lucidata, vabbè, non c'era niente, perché non ho la basettina, c'ho ancora incartata quella che mi hai portato tu dalla fiera, che hai comprato su. Basta, mettiamo quella. Ho visto che cavo abbastanza lungo, quella da 5 metri. Dovrebbe arrivarci giusto giusto. Altrimenti vediamo qualche soluzione ci sarà, insomma. E basta, tutto lì. E poi devo risolvere questa cosettina. Come vuoi che intervengano i vari filtri. e niente, ovviamente l'ultima versione è quella che è più comoda, perché per fare, per, non è che stai lì ogni volta a regolare a fare, una volta che hai scelto le frequenze di intervento, cosa dove tagliare, come fare eccetera, basta, lo chiudi e finita lì. Però ovviamente era, è molto più comodo poter lavorare, ad esempio nel caso mio che qua nel mobile, cioè per dover lavorarci dovrei smontare, tirare fuori, mettere la pancia all'aria, slittare, cioè è un caso, ma una volta che fai la caratura lo chiudi e finita lì. L'altro non ha nessun problema, perché in qualsiasi momento vuoi intervenire, agisci e fai, ma per il resto i finali sono gli stessi, il ricevitore, tutti i suoi ricevitori sono uguali, i preamplificatori che impiegano sono, i transistori per amplificatori sono gli stessi, il modulatore è uguale, cioè sono solamente praticamente una parte della logica che è stata aggiornata, però ovviamente è meglio quello. L'ho fatto lungo, ma mi pare che ho ti spiegato un po' il tutto. Sì, forse ho capito perfettamente, infatti io ho un devoto 150 volti e 750S, che praticamente è quella versione del 950S. L'850 però l'hanno fatto in un'unica versione, l'hanno fatto S, che poi veniva venduto come SAT con l'accordatore automatico inserito e aveva un prezzo, oppure S senza l'accordatore automatico inserito. I filtri erano optional, hanno fatto il filtro a 2.4, ma l'850, che è un apparato analogico, per poter usare l'unità DSP bisognava comprare l'unità DSP esterna, che è la DSP100, che è la stessa che si può usare con il 450 o cioè 90 nelle varie versioni AT, TS eccetera eccetera. L'unità digitale è optional, cioè non frutti la CC2, imparo la CC3 dietro, con la presa multiconnessione come ingresso, come c'è, c'è l'ingresso al RetArm per poter poi riportare, per usare il segnale dalla mia frequenza, lo elabora in maniera digitale, lo corregge, lo filtra e poi lo rimanda nuovamente dentro. Non so se l'hai mai visto, uno scatolotto tipo in nera, quello che ho io, tipo quel filtro digitale che ho io, però quello lì è un filtro abbastanza qui. Sì, l'avevo visto, non è caro, DSP dell'850, con questo è il 2750 SAT, con questo sono tutti i filtri, come hai detto tu, tutti si illuminano, tutti i filtri, ovvero quando cambi passano i filtri in automatico, poi quando accendi praticamente con la ricezione, questo è una bella radio. Dottore, io ti ho detto quello che hai preso tu da attore, quello è il DX. No, è l'SD questo qua, SD, S Digital, come ti ho detto con la comunità digitale nella pancia, l'altro è DX, entro contenuto nella comunità digitale, già nuovo si mette e si mette, come ti ho detto, l'unità digitale che poi diventa interna, perché poi la V che va diventa compagno, ma e l'altro quello è l'S, perciò SSD e SDX. Allora, vabbè, anche se l'S comunque non piacerebbe lo stesso averlo, ma se niente, a quel punto lì allora farei fuori l'altro radio che ho, a prendere quello. E adesso vediamo com'è la situazione. Antonio, le prendi, scusate, ma questi, io se non mi approfitto, non c'è Marco a parlare di queste cose, ma spero non vi annoiamo con i nostri discorsi. Sono ancora qui, ma sono frequentato adesso, sul canale la figlio io. In tecnica. Cristian non si va a dire che tu a Cristian gli hai chiesto che ti hai comprato 2.700 euro, a Cristian neanche un pericolo, vero Cristian? Ma ci sono parlato anche grosso vivo, a pericolo sono un miliardo, a me io sono contento, ma io non li posso usare. Bravo Cristian, hai ragione. Sì, così qua, è proprio fai bene perché insomma rinnovi e poi metti a casa sempre un pezzo importante piuttosto che altro. Ti allividisci ancora di qualcos'altro, intanto il discorso è così, la selezione è naturale, le cose più vecchie e meno utilizzate sono quelle che muoiono, che vanno a morire. Lì ancora qualcos'altro, lo già dice 820, 830, cosa mi fa? Sono sempre sì, belle cose, ma non hanno senso nel tuo, a meno che non ti fai delle mensole che vanno da muro a muro sul lato e fai una zona così, una zona a ricovero. Zona a ricovero li metti lì, li metti in numero di distanza, metti un cartello, rompi e li attacchi. Opera nazionale destinata in Italia. E ti ogni tanto tutti la scala, porti giù qualcosa, di una polverata e prova vedere se funziona. Ui, ma è che persona, ma fa niente. Vediamo il presunto, no, va bene così, Marco, mi sono organizzato, ben ovviamente, non voglio fare casino, voglio poi si incassano e si quello a me a tutti i dati. Non ho buttato niente, l'unico foro che ho fatto è per mettere il rinforzo sotto la scrivania bassa, non è tutto movibile, non ti credo che sia i piani, sono le vis, infatti ho cambiato anche cosa, ho cambiato quest'anno, sono i piedi, ho fatto con il ferro, l'ho fatto in legno, più bellino, più ordinato, insomma, e basta. No, io devo mettere un'altra volta tutta baracca, baracchetta con le cugne e tacchetti legno sotto la radio. No? Io sono da Marco, io uso i filtrini, i licenziali in gomma, comprati, cercati, tutta roba fatta. Speriamo che non avvenga niente di tutto ciò. Sì, ma è così, una volta che hai rinnovato quei pezzi importanti, piano piano poi gli altri, quelli vecchi, vanno a morire o a eliminarli per comunque acquistare delle cose che hanno motivo di occupare uno spazio, no? Perché il discorso è sempre lo stesso. Lo spazio è indispensabile, poi anche una volta che raggiungi certe dimensioni, più di così il braccio non puoi allungarlo, più di quel tanto in altezza non puoi andare, e allora cioè, devi scegliere che cosa devi usare e che cosa devi fare. Quello che è inutile lo devi togliere, c'è poco da fare, per togliere studio ovviamente si cerca di recuperare denaro, vendere e reinvestire con altre cose. Certo che il prezzo mi sembra sia che sia l'S che sia l'SD, se l'SDX è regalato, se l'SD è un prezzo eccezionale perché si parla di 1.800-2.000 euro per la versione digitale. Il mercato mediamente è quello, 1.800, anche Alfredo ho visto per la versione digitale, mentre per quelli normali siamo sempre sui 1.400, 1.600, 1.500, così, più o meno quello è il prezzo. Perciò già il prezzo è estremamente vantaggioso, anzi direi che è eccezionale, claro. Ci sono anni di differenza dal punto di vista dell'usura della componentistica e poi le prestazioni del 950S sono superiori rispetto a quelle del 940S AT, capito? È molto più silenzioso, il ricevitore è molto più performante e avevano migliorato le prestazioni dello slot tune, cioè è la versione che ha utilizzato il bellissimo lavoro svolto dal 940, grande apparato storico, importante, una pietra miliare, però il 50 è il modello che lo ha sostituito, insomma. E poi soprattutto con tutti i discorsi della affidabilità degli apparati, ce ne sono milioni di apparati in giro nel mondo e tutti che funzionano divinamente bene. Perciò se è l'S o qualunque esso sia, il prezzo è comunque estremamente competitivo, è eccezionale. Estremamente interessante, perché veramente come hai detto tu, poi a volte avevi comprato il 940 e se ti fidi, se trovi il 940 in belli, fiammati eccetera, li trovi intorno a quella cifra lì, 1.200, 1.100, 1.300 e poi magari qualcuno vuole qualcosa in meno, il prezzo è quello, perciò per prendere il 950S allo stesso prezzo è sicuramente un bel acquisto, ecco, fatti dire bene come il modello e poi soprattutto come è stato usato, che non abbia graffi o cose del genere, perché tu sei come me sotto questo profilo, deve essere una cosa immacolata, non ci deve essere manco un segno. O come non so se ti ricordi, qualche apparato di pensiero l'ha mangiato dai tupi nelle manopole, il cavolo Giano, gli artigli, cos'è? Nightmare lo usa l'apparato in trasmissione, pazzesco. Le manopole, non vi sono, le vi sono come è nuovo, perfetto, è nuovissimo. situazioni, sempre, chiaramente con un elicottero, io faccio un'attività, però quando due scendi fanno solo 50 mi sarebbe veramente, sarebbe piaciuto averlo, un bel pezzo, una cosa molto bella, così avrei fatto 850 e 950, 940 e 2000, se completi un po' la serie che ho dunque di un certo livello, insomma, ecco. Va bene così, poi per affiancare al 920 sarebbe voluto il Mark 5. allora se ne è arrivato al massimo, basta così, avrei sbaraccato tutto il resto del tendine, arrivederci, buon viaggio. Beh, caro Scorpio, io ti saluto perché è mezzanotte e 20 e domani con lo spalliero si deve fare alle 6 e mezza, se no alle 6 e un quarto, perché passa il mio collega per le mie alle 7. Quindi mi auguro la nonna, piacere aver chiacchierato con te come sempre, grazie ai signori che ci hanno anche stasera lasciato la possibilità di parlare, perché non sempre si parla a questi livelli, spero che si possa continuare, almeno sul canale 40, poi per il resto, libera scelta a tutti. Ciao Marco, saluti, baci, abbracci, ci aggiorniamo domani allora, come sempre. Tranquillo che domani mattina, appena arrivo al Nero, lì c'è un tabacchino, faccio subito la... faccio con la forbice tagliare le spine al riccio, non ti preoccupare. Ciao Cristian, buonanotte. Ciao a chi fosse ancora in ascolto qua, chi è seduto a letto, chi si è sollevato, insomma. Ciao a tutti, buonanotte. Il microfono è a Marco, pure anche a Cristian. Ascolto il finale, poi chiudo. Ciao. Benissimo. Mi hai fatto ridere. No, che ci sentiamo domani sera, perché intanto domani mattina sei al lavoro, quando rientro intanto io domani sera sono in studio, magari dopo che ti sei sistemato eccetera ci prendiamo un caffè, intanto io sai c'ho sempre quelle pause, mezza mattinata, fine mattinata e poi pomeriggio, o all'inizio fino al pomeriggio oppure verso metà pomeriggio un momento di coffee break, di relax, non devo prendere dopo lo stress delle telefonate, dei vari impegni di QRL, e anche io domani mattina devo stare presto e perciò non mi raccolto Cinti, che si era fatto anche abbastanza tardi, insomma. Va bene, grazie del consiglio a te Claudio, ringraziando, perché è giusto ringraziare chi ci ha permesso anche di poter proseguire in tutta tranquillità il consiglio, augurandoci che sia stato anche istruttivo per qualcuno e per qualcun altro magari noioso, e allora poterla cambiare canale. Buonanotte a tutti, buonanotte alle CVPL, ciao Cristian, buonanotte alle prossime sere, così conclude il Marco Scorpion The Voice, go in clarity now, così come normalmente metto il coperchio. Ciao ciao, buonanotte. Buon coperchio a tutti.